noi tuoi silenzi, il mare dei tuoi occhi, quando ridi, quando fuggi e sei tu come me. Basta il tuo sorriso, so chi sei, leggo le tue righe tuo respiro, come stai, vedo la tua luce. Amo le tue ali, le arie che dai, quando arrivi come un vento ed alzi la marea. Basta il tuo sorriso, so chi sei, ecco le tue rughe poi, e dal tuo respiro come stai, vedo la tua luce. Amo il tuo inverno, le tue malinconie, quando scendo come neve nelle tue poesie. Basta il tuo sorriso, so chi sei, leggo le tue mani poi, e dal tuo respiro come stai, vedo la tua luce.